Trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio. Buonasera Antonio. Come stai? Tutto bene. Tutto bene? Sopravviviamo al caldo. Sì, però in questi studi fantastici c'è un condizionatore che funziona molto molto bene, quindi siamo freschi, cerchiamo di tenere in funzione i neuroni perché non è facile dopo una giornata come questa. Allora, oggi parliamo del rapporto tra tecnologia, in particolare il rapporto tra internet e istituzioni culturali. È fatale in qualche modo che l'evoluzione di internet porti le istituzioni, soprattutto museali, a migliorare la propria presenza online. Parleremo di un esempio, secondo me, abbastanza riuscito, abbastanza evoluto in questo senso, e non voglio anticipare tutto adesso, proviamo a entrare magari in argomento. Con una bella anticipazione. Sì. No, vorrei lanciare alcune frasi di un personaggio molto importante, un architetto, Richard Meyer, l'autore della risistemazione dell'Ara Pacis qui a Roma, che ha in qualche modo firmato questa nuova stagione, questo nuovo rinascimento culturale a Roma con delle importanti realizzazioni, e poi cercheremo di approfondire anche il lato online di tutto questo. Rome is a city of light, and the light here is intoxicating. So you think about, okay, how do you bring light in different ways? How do you see out? How do you see the city that's around you? And then in terms of the materiality, you know, this is the first modern building in Rome since Mussolini, since World War II. And as a modern building, there should be an openness, a transparency, a lightness, a use of modern materials, but at the same time, it's Rome, and Rome was a city of stone, of travertine. So travertine seemed to be, as a Roman stone, a natural material to also use, as well as the glass. But since the Ara Pacis was moved to this site, since it was taken from another location and relocated here, it seemed appropriate to also then look back at where it was and find out, you know, what it was about that place that we could also, in a sense, relate to, that we're not only relating to the present situation of the Ara Pacis, but in a sense, looking back to even before it was here, in order to try to bring more of it here and to realize that life moves on. First it was in one portion of Rome, then here, and now it has a new museum that's all a part of that. And it seems that was appropriate to try to express in the architecture of what we were doing here. What makes me very proud of being architect for this building is, in a sense, it says, you know, Rome is a historic city. It's a city in which people come from all over the world to look at the art, which is the architecture of Rome. They walk around Rome and they just say, look at this, isn't this fantastic? They sit in the Piazza Navona and they say, this is one of the great outdoor rooms of the world. But what I think this building brings to Rome, which is important to me, it also says Rome is a city that is related to the 21st century. It's not only a museum. It also has a contemporary life and a life that will project into the next century. And I think that's very important as well. Beh, sono d'accordo, direi. Roma ha una sua identità contemporanea che finalmente comincia a venire alla luce anche grazie a queste importanti firme come Richard Meyer. Il brano che abbiamo sentito è tratto da un sito molto bello, un portale che si chiama museiincomuneroma.it e che rappresenta, diciamo, uno sforzo di omogeneizzazione, diciamo, di riunificazione di tutto quello che esisteva online nel mondo delle istituzioni museali che fanno capo al Comune di Roma. Abbiamo in linea Silvia Bendinelli della società Zetema, che è appunto responsabile della progettazione e della cura redazionale di questo portale. Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Silvia. Allora, grazie intanto della tua disponibilità, sappiamo che sei molto impegnata, anzi io ho scoperto in questi giorni che tu praticamente non hai orari. Vorrei chiederti intanto, proprio per entrare un po' in tema, che cos'è esattamente questo progetto che si chiama Musei in Comune? Sì, Musei in Comune sono un sistema museale che raccoglie i musei del Comune di Roma e comprende 14 musei. E Zetema Progetto Cultura si occupa di gestirle proprio dall'A alla Z, è un total service, potremmo dire. Da questa esigenza di creare quindi un'immagine coordinata che li accomunasse tutti è conseguita anche l'idea di costruire un portale. Un portale che, non so se avete avuto la possibilità di navigare, comunque ha una prima pagina di presentazione del sistema in cui sono elencati i musei che ne fanno parte e poi da lì si diramano i vari musei che hanno un sito proprio ma fanno chiaramente riferimento al portale. Quindi abbiamo i domini del museo museoincomuneroma.it, ma anche i domini dei singoli musei, come ad esempio museicapitolini.it oppure arapacis.it, e questo per garantire comunque una presenza su web anche indipendente dal sistema. Ecco, sicuramente c'è uno sforzo, dicevamo, di omogeneizzazione che è intanto già una grossa novità, perché ci sono altre città dove in realtà ogni istituzione museale ha una propria immagine, ma qui al di là dell'immagine ci sono dei servizi condivisi che sono molto interessanti e soprattutto in generale il patrimonio, no, culturale di Roma è sempre stato percepito prima della costituzione di questo sistema come un patrimonio disperso, parcellizzato, anche dal punto di vista della presenza online. Quindi, intanto vorrei chiederti che mondo hai trovato prima di lavorare a questo progetto, come erano strutturati, come avete recuperato e riorganizzato le informazioni, quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato, anche insomma considerata la natura degli interlocutori la vastità delle informazioni. Sì, infatti. Consideriamo che il progetto è iniziato parecchio tempo fa, quindi un anno e mezzo fa, e quindi già i tempi danno idea di quanto sia stato complesso pubblicare tutti questi siti. E l'abbiamo pubblicato il primo giorno online, è stato il 21 aprile 2006, quando abbiamo inaugurato anche l'Arapacis. In quell'occasione è stato presentato sia il portale dei Musei in Comune sia il sito dell'Arapacis e poi a seguire anche tutti gli altri. Allora, quindi nel caso ad esempio dell'Arapacis, del Museo dell'Arapacis, non c'era un sito ovviamente, perché non esisteva il Museo dell'Arapacis, esisteva l'Arapacis come monumento, ma non come museo. Presenza online, diciamo. Sì, esatto. Poi, ad esempio, il museo successivo che è stato pubblicato è quello di Carlo Bilotti, che ha anch'esso un nuovo museo, che sta in Villa Borghese, e anche questo non aveva ovviamente il sito, e quindi queste sono pubblicazioni ex novo, quindi non ho trovato niente. Ecco, e invece per quanto riguarda il problema di recuperare informazioni che online erano già esistenti, cioè, sì. Come funziona? Cioè, c'è qualcuno che tra virgolette uccide il sito precedente? Chiaramente noi lavoriamo sempre insieme al Comune di Roma e in particolare alla sovrintendenza comunale, che ci ha aiutato e ci ha garantito anche una qualità, diciamo, di contenuti e tutto il resto, quindi tutto lo sforzo redazionale non risiede completamente all'interno della società Zetema. No, lo sforzo redazionale esiste solo nel nel caricamento, nell'aggiornamento dei siti, sì. Però i contenuti arrivano direttamente dalla sovrintendenza. Questo è importante perché i musei in comune, insomma, i contenuti dei musei in comune sono validati, diciamo così, insomma, con questo termine un po' brutto. Beh, però è anche un modo per evitare imbarazzi dal punto di vista proprio delle approvazioni. Sì, vogliamo sia evitare imbarazzi che vogliamo evitare anche false notizie, certo, diciamo. Certo. Vogliamo essere proprio sicuri di quello che pubblichiamo. E poi in realtà Zetema ci appare molto poco, cioè Zetema è una società del Comune di Roma, quindi in realtà noi lavoriamo per il Comune di Roma e siamo un tramite per, certo, per aiutare e facilitare la vita ai cittadini, ai visitatori, insomma, dei musei. Ecco, c'è questa tendenza nel mondo delle istituzioni culturali, che è sempre più affermata, verso la creazione di veri e propri musei virtuali, che è un passo ulteriore rispetto all'idea di un sito dedicato a una istituzione museale. Addirittura, se non sbaglio, nel 98 ci fu questo progetto dell'IBM per l'Ermitage di San Pietroburgo, mm-hmm, che magari poi metteremo anche il link sul nostro blog. Se uno va a vederlo adesso sembrano passati molti anni perché la grafica è superata, eccetera, però quello fu sicuramente un importante primo approccio, no? All'idea di rendere disponibili proprio anche le opere, non dico nella loro integrità, ma insomma dal punto di vista della comunicazione, un passo molto importante. Come si colloca un progetto invece come il vostro in un contesto del genere? State andando anche voi in questa direzione? È fondamentale pensare che appunto questo grande sforzo di cui parlavamo prima si è quasi concluso, perché non ho fatto in tempo a dirlo, però dei musei in comune è stato pubblicato, manca solamente il Mercati e Fuori Traiano, che è ancora chiuso e aprirà in autunno, quindi insomma. Sì. Quindi questo grande sforzo è intanto servito per creare una piattaforma su cui noi lavoreremo ancora, cioè abbiamo utilizzato anche delle tecnologie che ci permettono la modularità, la scalarità e quindi la possibilità di inserire nuove funzionalità. E in questo senso, insomma, potremmo pensare anche di inserire delle visite virtuali. Ecco, a proposito di nuove funzionalità, Musei in Comune può ancora, come del resto anche voi dichiarate, definirsi un portale, cioè un luogo dove un certo quantitativo di informazioni e di servizi sono messi a disposizione in modo usabile, tra virgolette, intelligente, e resi in qualche modo fruibili da un pubblico di utenti. Tutto questo però appartiene a un modo di concepire il web in una logica editoriale, cioè c'è un editore e ci sono dei fruitori. Un flusso di informazioni che va dall'alto verso il basso. C'è però adesso questo fenomeno che potremmo chiamare la fase adulta di internet, che ci sta abituando sempre più a siti che non sono più dei portali intesi in questo modo, ma delle vere e proprie applicazioni online che riorganizzano contenuti che però sono prodotti dagli stessi utenti, quello che viene chiamato il web 2.0. Io non mi voglio addentrare nella polemica su che cosa è web 2.0, che cosa non lo è, ma era per intendere tra di noi. Volete anche voi, diciamo così, compiere passi in questo senso, e se sì, in che modo? Ecco, appunto, da questa piattaforma di cui parlavo prima, su cui appunto partire per il futuro, diciamo sì, si è sviluppato in una logica editoriale, ma anche perché molti dei musei non avevano una presenza web che fosse forte, che funzionasse, e quindi abbiamo dovuto risistemare e appunto creare un'immagine e una navigazione coordinata, insomma. E poi ci sarà spazio, perché io personalmente sono molto interessata, ma anche, diciamo, la mia azienda pensa a questo, di inserire delle nuove funzionalità in cui l'utente entra più attivamente. In che modo? Ad esempio creando dei percorsi fra opere, funzionalità che esiste già, però adesso uno se lo tiene per sé il proprio percorso. Invece si può condividere nella invece nell'idea che sì, vogliamo sviluppare, è quello di metterlo online, cioè di dire: guardate che bel percorso che ho fatto, questo è il sono i Musei Capitolini, masterpiece dei Musei Capitolini. A me piace questo percorso, quindi condividere le varie esperienze. E questo può essere sia fatto attraverso le opere che attraverso, non so, tipo delle audioguide, degli MP3 scaricabili. Ora, il panorama potrebbe essere molto ampio e quindi potrebbe essere anche, cioè, frutto di cose interessanti anche per la sovrintendenza, comunque, perché il gradimento dei visitatori è importante per capire quale direzione continuare o prendere o cambiare, insomma. Una domanda: in questa visione che voi avete di nuovi sviluppi, prevedete a breve una vostra entrata su Second Life, dove mostrare virtualmente in 3D tutte le vostre opere o parte di esse? Ma anche questo è una possibilità e personalmente, parlo solamente a titolo personale, io non mi sento un po' ancora collegata alla prima Levita, quindi non so, non vedo la necessità di pubblicarla su Second Life. Abbiamo già fatto una volta una puntata in cui sono emersi subito gli apocalittici e gli integrati. Io sono un apocalittico, sono stato etichettato in questo modo, quindi siamo dalla stessa parte. Ecco, non lo so, forse io mi sento un po' anziana pensando così, forse poi dopo svilupperò un altro pensiero, però adesso lo penso in questa maniera. Va bene, dunque, in quasi tutti i siti dei musei che fanno parte di questo portale ci sono delle newsletter, no? A cui ci si può abbonare per ricevere le novità in posta elettronica. Sì, però è una newsletter unica in realtà. Ah, è unica, ok, sì. Credevo che fosse... No, è del portale e anche noi abbiamo pensato appunto a farne più per ogni singolo museo, però sarebbe stato uno sforzo cognitivo per l'utente, perché potuto ricevere 12 newsletter, 14 newsletter. Pesante. È molto confusionario. Invece, oltretutto, questo va anche nella direzione del rafforzamento dell'idea di sistema. Però sai che molte persone, invece che abbonarsi a delle newsletter, ormai si abbonano a dei feed RSS, sì, no? Sì, generati sì. Dai siti. Pensate di introdurre le funzionalità RSS? In realtà il sistema già lo permette, aspettavamo di implementarlo e di metterlo diciamo a disposizione degli utenti per la pubblicazione di tutti i siti del portale. Ora mi hai messo in curiosità, parli di questo sistema magico che ti permette di fare un sacco di cose che basta fare un click e si abilita. È qualcosa che è stato scritto direttamente per voi o state usando un CMS? Un CMS open source. Io so che la pubblica amministrazione locale è molto legata a strumenti open source, no? Per la creazione di siti. Mm-hmm. Anche proprio per una, diciamo, direttiva in qualche modo, una policy si potrebbe dire. Sì, diciamo che il nostro sindaco è molto interessato all'open source, ma è interessato nel senso che l'open source è il futuro veramente dell'informatica, a mio parere, ed è quello che ci permette di lavorare bene e senza ulteriori fardelli di licenze. Insomma, io mi sono trovata molto bene e sto continuando a lavorare con questi sistemi open source. Sì, soprattutto pericolosi sono i meccanismi di fidelizzazione forzata del cliente, no? Esatto. Per curiosità, esatto. Si può dire il nome di questo CMS o no? Sì, si chiama EZ Publish. Ok, sì. Benissimo. Quindi adesso possiamo alleggerire un po' la discussione, perché altrimenti diventa una trasmissione per voi tecnici. No, era solo una domanda, dai, smetto. Mi rivolgo a Daniela, che ovviamente cura anche il sito web di Radio Imago. Tornando, diciamo così, al lato utente, le informazioni presenti in un portale come il vostro sono di importanza critica, soprattutto in condizioni di mobilità. Molte volte capita di trovarsi in giro per Roma senza conoscere gli orari di apertura di un museo, le date di un'esposizione, informazioni che spesso determinano la decisione se scegliere di visitare o meno un certo luogo, una certa esposizione. State pensando a una versione del vostro sito per i dispositivi mobili? Allora, tutte le informazioni che sono inserite sono esportabili in flussi XML, ecco. E questo formato standard che serve appunto per interscambiare i dati permette anche la pubblicazione su altri media, che può essere il cellulare, la TV digitale, il televideo, quindi insomma siamo veramente aperti alla possibilità appunto di utilizzare il sito, di navigare il sito anche su dispositivi diversi dal computer. Questo mi conforta, allora, perché Daniela mi prende sempre in giro perché io uso sempre il cellulare per collegarmi. Facciamo una piccola pausa, ci sentiamo tra qualche minuto. Sorge il complesso monumentale del Campidoglio, ha una storia millenaria legata alla sua natura di centro religioso e politico della città di Roma. Gli scavi archeologici hanno rivelato addirittura le tracce di una frequentazione del colle già nell'età del bronzo finale, nella metà del secondo millennio avanti Cristo. In origine la sommità del colle era caratterizzata da due alture coperte di boschi, separate al centro da una piccola valle, nella quale, secondo la tradizione, si trovava il mitico Asilum, istituito da Romolo per accogliere gli abitanti dei centri vicini. L'altura allora, Silvia, stiamo ancora sentendo in sottofondo una delle vostre audioguide in MP3 scaricabili dal sito, che mi sembra una delle evoluzioni più interessanti, anche perché, insomma, fino a pochi anni fa era naturale pensare di semplicemente affittare una di queste apparecchiature all'interno di un museo, anche pagare qualcosa. Cosa che è tuttora possibile. Sì, è tuttora possibile, naturalente, che non si può pretendere che tutti abbiano un lettore MP3. Esatto. Però, diciamo, è una alternativa insomma interessante. Avete dei dati sull'utilizzo di questo servizio, su quante persone lo stanno usando? Non moltissimi, comunque, sì, sono una ventina, varia un po' da 20 a 40 alla settimana. Pensate di rendere possibile l'abbonamento in podcasting oppure semplicemente con questa modalità? Sì, no, per l'Ara Pacis è così. Ok, quindi diciamo che state facendo degli esperimenti museo per museo, poi è chiaro che... Sì, stiamo andando avanti, okay. Non è ancora finito proprio, è ancora molto in fieri, diciamo, la cosa. Ecco, una parte che sta crescendo molto nel portale è quella, diciamo, multimediale. La prima cosa che vorrei chiederti è, questi contenuti che sono presenti sul portale, che ci sono dei video, delle interviste come quella che abbiamo sentito a Richard Mayer, sono realizzati comunque esternamente, cioè esistono come materiale, sono prodotti per il Comune di Roma oppure in qualche modo li preparate voi? No, è sempre del Comune di Roma, ad esempio nel caso dei contributi sul Museo dell'Ara Pacis, l'abbiamo fatto fare in occasione della pubblicazione del sito e diciamo che il target era proprio il web. Invece nel caso, ad esempio, lo vedremo presto, per il planetario ci saranno dei contributi multimediali che sono loro, quindi certo, che hanno già preparato loro e lo mettono a disposizione. No, ti ho fatto questa domanda perché mm-hmm, se uno naviga nel mare magnum dei siti del Comune di Roma, dei vari municipi o dei vari assessorati, trova un'incredibile quantità di contenuti, però non sempre si ha la sensazione che siano presenti là dove potrebbero essere utili. Non si potrebbe creare un database unico di tutte le produzioni che fanno capo in qualche modo al Comune, associare delle etichette, forse mi spingo un po' oltre, ai singoli file e permettere poi magari di riaggregarli in un portale come il vostro, un portale verticale tematico? Quel è un bellissimo progetto. Quello che posso dire è che sto assistendo proprio a una tendenza alla sistematizzazione molto forte, anche all'interno, stranamente, anche all'interno del Comune di Roma, quindi non potrebbe anche succedere questo. Hai detto stranamente, quindi ti faccio una domanda a cui non avevo pensato. I tuoi interlocutori vedono i risultati del sito, cioè vedono che il sito funziona e sì, si rompono, diciamo così, alcuni meccanismi di resistenza al cambiamento, alcuni blocchi. Questa è stata una delle soddisfazioni mie maggiori. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, è stato difficile proprio entrare nella mentalità delle persone che lavorano nei musei, nella sovrintendenza, ovviamente massima collaborazione sempre, però spesso vedevo che c'era una specie di muro, diciamo. Poi dopo, però, vedendo che funziona, vedendo che le statistiche stanno dando, diciamo, buonissimi risultati, vedo che proprio sono interessati a continuare e anche migliorarsi nella presenza web, ecco. Silvia, una curiosità, in tutti i vostri siti vengono riprese molte opere d'arte che vengono esposte. Quali sono i problemi di diritti d'autore e come li avete risolti? Sì, innanzitutto sono molto piccole le immagini, quindi non hanno la risoluzione che creerebbe il problema. Esatto. Diciamo. In ogni caso, per le opere che hanno più di 50 anni non ci sono problemi di nessun tipo. Per le opere invece più recenti, e questo è il caso del Museo Bilotti, perché è un museo di arte contemporanea, sì. Allora abbiamo dovuto fare un abbonamento con la SIAE. Ecco. Tornando al repository, al contenitore di tutti i contenuti multimediali, siete aperti all'idea di pubblicare contenuti realizzati dagli utenti del vostro sito? Beh, sì, come si diceva un po' di tempo fa, chiaramente è quello la tendenza, è quello il futuro di Internet, quindi penso proprio che anche noi ci adegueremo, siamo prontissimi ad adeguarci, siamo anche convinti che questo migliorerebbe anche la fruizione per il visitatore. Per chiudere, vorrei uscire un po' dal perimetro del progetto museincomuneroma.it. È difficile ricordarsi questo indirizzo, comunque lo pubblicheremo sul sito per certezza, perché naturalmente per radio non è facile dettare un indirizzo web. Vorrei chiederti, siccome Zetema è impegnata anche in tutta una serie di altri progetti multimediali, sì, no, che sono legati alle attività culturali del mm-hmm, Comune di Roma, che si stanno moltiplicando, direi esplodendo, sì, puoi segnalarci qualche altra iniziativa interessante di Zetema? Beh, questo però non è una sorpresa, noi faremo la quinta notte bianca a settembre. E abbiamo pubblicato proprio martedì il sito a corredo dell'evento e devo dire che quest'anno, grazie alla collaborazione con SEAT, è venuto veramente un prodotto notevole che facilita la navigazione e rende possibile ad esempio la creazione di percorsi personali e anche la possibilità di spedire il proprio percorso all'amico, per dire. È importantissimo, perché il problema principale della notte bianca è appunto incontrarsi, no? Sì, sì, infatti la città diventa un immenso salotto. Sì, e SEAT ci ha fornito la possibilità di inserire le loro mappe per ogni evento, quindi si sa la collocazione precisa, diciamo, del singolo evento e anche il percorso stesso può essere collocato nella mappa e vengono dati dettagli per arrivare da una parte all'altra. Il sito della Notte Bianca? È www.lanottebianca.it. Benissimo Silvia, io credo che insomma abbiamo messo un po' di carne al fuoco, sono sicuro che molte persone già si staranno preparando per visitare i musei del Comune di Roma, partendo magari dalle informazioni che sono sul sito. Per quanto mi riguarda, soprattutto sono concentrato sulla Notte Bianca. Ecco. E grazie per il tuo tempo, per la tua disponibilità. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è. Il trucco c'è. Si chiama passione. Allora, lo sai qual è il primo museo che voglio visitare, Daniela? Ci voglio portare mia figlia, che è appassionata di stelle e pianeti. È il nuovo planetario, nuovo, cioè esiste da un sacco di tempo, solo che ma l'osservatorio? No, quello è l'osservatorio di Monte Mario. Adesso c'è il planetario, proprio col museo, ed è all'Eur, credo nel palazzo del Museo della Civiltà Romana, ma questo non potrei giurare. Pilu sarà contentissima. Sarà contentissima, sì, assolutamente. Il guru di oggi, torniamo a parlare di Net TV, in particolare di DVBH. Argomento a noi molto caro. Molto caro, vabbè, c'è un piccolo conflitto di interessi. Vorremmo saltare sul DVBH, non lo so, beh, ci sono altri modi per essere ascoltati in condizioni di mobilità. Ne parliamo con David Bogi, che è una persona che lavora moltissimo su questi temi per Mediaset, e il Mediaset è considerato il punto di riferimento su queste strategie. Lui ha una sua visione un po' diversa dalla mia. Ti propongo di ascoltare il dibattito. Okay. Non è un'intervista, è un dibattito. È un dibattito. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Allora, siamo in compagnia di David Bogi, che in Mediaset si occupa di? Dei nuovi progetti digitali terrestri. Ecco, in Italia c'è questa idea di fruire video in condizioni di mobilità che è ancora un po' controversa, perché insomma sembra abbastanza chiaro che usare la stessa rete usata per le comunicazioni mobili, cioè l'UMTS, non faccia grande presa sul pubblico, anche per gli alti costi di gestione, e le stesse videochiamate si sono rivelate tutt'altro che una killer application. Forse qualcosa sta cambiando usando un'altra tecnologia di trasmissione, cioè il DVBH, però c'è anche qualcuno, abbiamo sentito prima una persona della RAI dire che tutto sommato il DVBH cambia la tecnologia, ma il problema di fondo è che la fruizione mobile di contenuti video è troppo legata all'eccezionalità di alcuni eventi e forse è una strada un po' troppo a ostacoli. Qual è la posizione di Mediaset? Beh, io non sono così pessimista sull'utilizzabilità, cioè sulla possibilità che si trovi una soluzione editoriale di successo per la TV mobile. Sono d'accordo sul fatto che il passaggio dalla UMTS alla DVBH sostanzialmente riduce i costi lato operatore e soprattutto lato utente, perché nel modello dell'UMTS gli operatori telefonici ribaltavano sull'utente l'alto costo trasmissivo che doveva sostenere. La TV in mobilità non è legata, secondo me, fondamentalmente agli eventi in diretta. Ci sono delle soluzioni editoriali da esplorare riguardo alla TV mobile, che riguardano il genere di contenuti che più si sposa, più si integra con la user experience in mobilità. Una user experience che necessariamente ha intervalli di fruizione brevi, non maggiori di 20 minuti, e deve concentrarsi sui contenuti che hanno una struttura editoriale flessibile, quindi che ammettono entrate e uscite durante la fruizione dei contenuti. Quindi le news, il genere fan, altri generi che stiamo all'interno di Mediaset esplorando per creare contenuti ad hoc per la mobile TV. Ma proprio alla luce di quello che abbiamo appena detto, cioè che in linea di massima chi si trova in condizioni di mobilità preferisce interagire con il mondo esterno piuttosto che comunque ricorrere al proprio terminale di fruizione mobile, cosa che per esempio l'audio riesce a gestire molto meglio, perché tu puoi ascoltare musica per esempio con l'iPod e interagire più facilmente con il mondo esterno, mentre il video no. Cioè, perché attraverso il DVB-H non si trasmettono anche contenuti solo audio, per esempio? Perché ancora nessuno ci ha pensato? Beh, sul fatto che fruendo di contenuti solo audio si ha maggiore capacità di interagire col mondo esterno non sono così d'accordo, perché effettivamente i contenuti audio vengono fruiti con terminali portatili attraverso gli auricolari, che escludono completamente il rapporto audio con l'esterno, mentre i contenuti video su DVB-H vengono fruiti con terminali attraverso normalmente nessun auricolare, quindi non viene così escluso il rapporto col mondo esterno. Ma no, il problema del DVB-H è che perché non si offrono contenuti audio? Perché la tecnologia trasmissiva utilizzata dal DVB-H è quella televisiva tipica, e quindi la ottimizza offrendo contenuti televisivi ad altissimo livello. Il livello qualitativo del contenuto DVB-H non è comparabile con quello UMTS, non è assolutamente comparabile, è uno standard qualitativo tipico della TV digitale. Sta forse scontando il prezzo delle promesse non mantenute dall'UMTS, cioè adesso c'è più, il pubblico è più smaliziato, pensa di trovarsi di fronte all'ennesima offerta che poi non no. Mantiene quello che promette. Il punto è che non è neanche vero che in mobilità le persone preferiscono non vedere contenuti. In realtà il senso del contenuto televisivo in mobilità è quello di intrattenere le attese. Cioè, se tu hai da fare, quando sei in mobilità non guardi un contenuto di intrattenimento su terminale. Guardi i contenuti di intrattenimento sul terminale se devi intrattenere la tua attesa, se ti stai spostando, se stai facendo una fila, se devi intrattenere un periodo di attesa. Allora, qua io non ho una convinzione apodittica su cosa funzioni e cosa meno, stiamo cercando di valutarlo. Non sono neanche convinto che funzionino di più i contenuti on demand rispetto ai contenuti broadcast. Se i contenuti broadcast sono costruiti sulle esigenze del target, ci sono contenuti news broadcast con aggiornamenti continui che funzionerebbero molto bene, secondo me, su DVB-H, con continui highlight. Ci sono contenuti fan che in quanto tali vanno bene, perché accedi a uno sketch comico fatto bene e non è necessario richiamarlo on demand. Quando accedi lo vedi finire e aspetti che inizi. Ci sono dei generi che funzionano molto bene su DVB-H, indipendentemente dalla fruizione on demand. Thank you. quando si parlava di contenuti fan mi veniva in mente quello che fa Comedy Central negli Stati Uniti, che comincia a produrre contenuti che poi vende agli operatori, no? Certo. Sono dei piccoli sketch. Cioè, in realtà nelle piattaforme che sono oggetto dell'articolazione, diciamo, della convergenza digitale, si sta assistendo a un fenomeno nel quale si stanno definendo i contenuti premium che funzionano più meglio in ciascuna delle piattaforme. Nella piattaforma televisiva digitale standard i contenuti premium sono i contenuti delle major cinematografiche e il calcio. In mobilità effettivamente potrebbero funzionare contenuti completamente diversi. In mobilità il contenuto premium potrebbe essere completamente diverso, anzi i contenuti premium come i movie delle major non funzionano. Funzionano gli eventi in diretta, funzionano le partite, funzionano gli highlight delle partite, funzionano le news, che non sono per nulla un contenuto premium in ambiente broadcast tradizionale. Ma allora, perché, faccio una domanda, se il problema non è la tecnologia o il momento della fruizione, perché un utente in condizioni di mobilità dovrebbe preferire un contenuto premium studiato dai migliori esperti, mass mediologi, programmisti di Mediaset, di un grande mainstream media, piuttosto che magari il podcast di Beppe Grillo? Perché in realtà il contenuto viene apprezzato per il suo valore editoriale, per la mediazione professionale contenuta in quel prodotto, indipendentemente da quale la fonte. Se Grillo è in grado di attivare una mediazione professionale editoriale elevata, effettivamente il contenuto uno lo guarda, ma così come se un gruppo autorale di Mediaset, di Rai, di La7, è in grado di sviluppare contenuti che funzionano per quella user experience, uno accede volentieri a quel contenuto. Quindi avere un atteggiamento il più laico possibile, perché quando si parla di nuove piattaforme si tende fisiologicamente a avere un atteggiamento, come dire, da talebano o così o più. Siccome poi questa è una piattaforma che oggettivamente stenta a partire, non ha avuto una fortissima partenza. C'è anche un problema di copertura. Sì, c'è un problema di copertura outdoor, c'è un problema di copertura indoor. E poi secondo me c'è un problema legato alla scarsa innovazione prodotto applicata a quella piattaforma, perché nella fase 1 della partenza del DVBH i broadcaster non hanno fatto nessuno sforzo, nessun investimento sull'informazione del prodotto, cioè i content provider. I service provider, le telco, hanno acquistato i diritti dei contenuti più forti in diretta, cioè le partite di calcio, e poi dei canali generalisti standard per avvalorare quella piattaforma come televisiva. Se vedete nell'offerta di H3G, di Team, ci sono tutti i canali generalisti, c'è la Rai, ci sono i canali Mediaset, più le partite. Effettivamente quello che manca sono i contenuti costruiti ad hoc per la piattaforma. Noi ci stiamo pensando seriamente, abbiamo attivato da mesi i gruppi di lavoro che stanno progettando contenuti di flusso definiti da produrre ad hoc per la piattaforma. Questo non so se garantirà un successo alla piattaforma, ma comunque è l'unico modo di approcciare nuove piattaforme, perché effettivamente non c'è una duttilità così forte dei contenuti generalisti o dei contenuti tradizionali. Grazie. È un bel enigma. Ci stai ancora pensando? Sì, è un bel enigma. Beh, abbiamo sentito intanto in queste ultime settimane il punto di vista di Mediaset, poi quello della Rai, poi i vari guru, Tessarolo, eccetera. Insomma, adesso sul DVBH, insomma, credo che possiamo anche chiudere l'argomento. Abbiamo idee chiare? Sì, no, io per niente, assolutamente. Del resto siamo in una fase pionieristica, sono territori ancora abbastanza inesplorati. È opportuno cercare magari di gettare lo sguardo più in avanti possibile. No, la cosa che mi fa sorridere è pensare che tutta questa gente sta lì, pensa, e invece in Giappone una ragazzina è diventata famosa perché ha tirato fuori il suo primo racconto via SMS. Giusto. Queste sono cose che mi sconvolgono. Il primo caso editoriale al Giappone, mondo. In Giappone, Daniela, nessuno guarda più la TV perché giocano tutti con la Wii. Ti dico solo questo. Questa è l'ultima notizia che ho visto sul blog di Tessarolo e sono rimasto di sasso. E ho cominciato a fare una campagna interna familiare per comprare la Wii, ma questo è un altro discorso. Va bene, dunque, Daniela, siamo arrivati anche questa volta in chiusura. Vuoi dirci qualcosa su quello che state facendo? Ho tante anticipazioni da dare. Su Second Life, intendo. Su Second Life, che a breve ci sarà una sezione del sito dedicata a Second Life con tutti gli eventi che seguiremo, in modo da dare a tutti gli utenti, sia della radio che di Second Life, una programmazione. Sì, perché il problema è che chi non ha un account di Second Life in questo momento, al di là della pagina che c'è adesso, non sa nulla. Invece adesso ci sarà comunque, sì, diciamo, sì, il notiziario. Bene, dunque noi adesso dobbiamo avvisare i nostri ascoltatori che ce ne andiamo tutti in vacanza. Vacanza. E che torneremo a settembre con altre fantasmagoriche puntate di Proxy Bar con tanti ospiti e tematiche interessanti. Intanto, vabbè, Daniele, io ti ringrazio per queste, quante sono? 15, 16 puntate che abbiamo fatto. Forse il 17 questa, sai? Ah sì? Quasi quasi. Poi vedremo se è il caso di fare la 16 bis. No, comunque per me è stata intanto un'esperienza importante in una vera radio davanti a veri microfoni di marca, sentire la mia voce con un suono finalmente decente, ma soprattutto sentire tante persone importanti che sono intervenute in studio. Sono convinto che ne avremo tante altre alla ripresa dopo le vacanze. Me lo auguro. Va bene, allora grazie a tutti per l'ascolto, buone vacanze a tutti. Buone vacanze. Ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.